raga, è fruscente i nocchi. Alza di moto il QRM, mentre io non ne ho, Il secondo, perché sto usando un altro apparecchio, che è piccolino, un apparecchietto così di riserva, perché l'altro è impegnato sulle bande basse, in banda larga metrica, quindi sto facendo degli ascolti in digitale. Quindi questo è così, di riserva, dai. Aspetta, no, dice ancora bene. Una volta, era stamattina che ti stavi parlando, lei. Mi sta arrivando a Santiago stesso. No, io devo dire che questo apparecchio c'ha quel pregio che QRM lo sente poco, evidentemente è ben filtrato. Ancora meglio l'altro che adesso è acceso, forse sotto in banda bassa, c'ha pochissimo QRM lo stesso, sono apparecchi molto silenziosi, molto filtrati, però purtroppo ogni tanto vedo che fa quelle scariche, no, se ne accorgi, perché sono improvvise, quindi ci deve essere in arrivo un temporale, però ancora è molto molto lontano, Presente che io sono facendo ascolto sui 5 mega più o meno, però ogni tanto, siccome c'è quelli con la visibili, no, con l'analizzatore di spettro, ogni tanto ci sono queste righe corti che dovrebbero essere cariche elettriche, quindi qua è tutto tranquillo per adesso, a parte la pioggia. Adesso è calata un pochino, c'è queste pause, poi riprende più forte, però il cielo mi sembra normale, cioè ancora luminoso. Si ripeta nero, inizia ad arrivare i fulmini. Che scariche sono? QRM tipo scariche? Come onde, corrente elettrostatica, roba di più. Provato a scaricare ancora, non c'è, statica non c'è, c'è rumore da. Le antenne di norma sono cortocircuitate, quindi la statica non entra, il problema è quando ci sono fulmini che entrano proprio voltaggi pericolosi e li porta qui dentro, tutto lì. Infatti di ragione mi conviene spegnere l'altro, perché lo sto guardando ogni tanto e mi fa queste luci che non promettono niente di buono, capito? Quindi spegniamo bene, ma adesso intorno alle 19 inizia, dovrebbe arrivare qua. Speriamo di no, speriamo che cambi strada. Sì, poco fa ho visto la televisione, che metto appunto, appunto dava pioggia battente, temporale, magari si passerà di qui. Come ti sto arrivando? Guarda, qua è un segnale, come dire, fittizio, quindi non è un segnale vero. Qua segna 5, mi sblocca anche lo stress, perché ogni tanto attacco lo stress, però la radio è buona, quindi dovresti essere intorno al 6 al chilometro, dai, perché c'è quelle smitter che mettono adesso, tutti un po' strani, capito? Non sono né precisi né niente, giusto una cosa simbolica. Mi sta dando un eccito di stazionaggio, bisogna che la riduca il tipo l'antenna, la sale ferma, un po' di pazienza, non riesco a parlare bene, però da solo viene, da solo è la palla e l'antenna, fatto il conto che saranno 14 metri di roba. Quindi sto aspettando che qualche mio figlio venga da mia mano, speriamo. Cosa devo dire io? Che ho piantato tutto l'assoluto, due tralicci, o meglio, sono due ponteggi in realtà, però uno è alto 6 metri e poi a cui è attaccato un tubo di alti 6 metri, quindi sono, sono 12 metri. L'altro è alto 10 metri più 8 metri, il tubo sono 18 metri. Quindi è tutto questo lanterne, non ce n'è una sola, ce ne sono, uno ne ha 5 sopra, l'altro ne ha 2, quindi un piccolo quadrante sul tetto, vabbè, quello è basso, ci puoi accedere tranquillamente, però il tubo è pesante. E così, è una passione, oltre che costosa, anche rischiosa a volte. E diciamo che si può arrangiare meglio, ci vogliono tantissimo, ci sono quei pali telescopi, chiamano quella, che fanno una meraviglia, costano un po', però quando devi fare qualcosa l'antenna, giri la manovella, la parte e fai tutto da solo, ma costa un po'. Un tubo da 6 metri, da 12 metri, un po' più soldi da soli, lo controllo più bene, non vedo che chi dice che amare, non ha mai avuto problemi, è andato sempre bene. Sì, forse vuole entrare qualcuno, da poco ti faccio entrare, se li conosco sono quelli militari, sono quelli che sono di due tipi, uno proprio telescopico e la manovella e sale, oppure anche pneumatico, l'altro tipo è come un cannoncino, qui dentro metti questi tubi, poi giri la manovella e sale e unisce, comunque sono entrambi roba di surplus militare. Qualcuno è carrellato tra l'altro. C'era qualcuno che forse voleva entrare avanti? No, negativo, forse era qualcuno di passaggio. Claudio? Sì, io non ho sentito nessuno, non ho sentito nessun gesto. E vabbè, volevo fare un salto in macelleria, ma sta piovendo ancora. Magari vado più tardi. E qui vicino a casa sta passando un fiume di acqua di sotto, c'è la bagnata, ci vogliono gli stivali. Infatti. È stata una chiamata, vediamo ancora così avanti. Avanti chi chiama sul canale 10? No, negativo. O non mi sente, sente a te, o viceversa. No, so. Comunque vabbè, siamo qua. Sì, poi quando si sente una strada di quelle un po' in pendenza, guai. Con queste piogge così violente, sono tipiche piogge tropicali, non è roba che conosciamo noi, perlomeno quella quando eravamo piccoli, è più roba tipo tropicale, no? Quelle che si scatenano e poi c'è il sole. Oh, sembrerebbe che è incredibile il tuo resto. Provo a cambiare apparato a vedere cosa succede. Sì, che apparato sta usando adesso? Buonasera, Radio Fran. Chi sei, Gianni? Sono andato solo per salutarvi, c'è il Perfezziaghe che c'era, Lupo Grigio che stava chiamando, forse non lo sentiva, dai. Io sono all'ascolto e sto facendo roba a casa. In compagnia di chi sei? Di Claudio, di Porto Torre. Niente, già, sì, io ho detto che c'è stata una chiamata, abbiamo aspettato ma non è entrato nessuno per due volte. classe di, non so. Probabilmente non l'avete sentito, arriva un po' un basso, eh. Io l'ho sentito perché lo copio sempre anche quando è basso, però magari tu puoi salutare un altro amico, l'hai sentito cordialità. Per un momento dicevo questa è una voce conosciuta e l'ho assomigliata molto a Torello Verde, lo sai la voce sua, non so se tu conosci il mio attore. La timbrica uguale, ciao. Sì, dottore, sì. Gianni, ti sento un po' male, troppo amplificato. Hai detto che c'ha la voce di Tore? Assomiglia molto a quella di Tore Lamberde, la timbrica. Ah, sì, ho capito. Ho capito. Vediamo se Claudio ha cambiato l'apparecchio, perché c'ha moltissimo problema, perché si sta avvicinando qualche temporale, perché c'erano molte scariche e anch'io sulla radio sentivo che c'è qualcosa in arrivo, speriamo bene. Guarda, già piovendo per la cronaca. Sì, qua è tutto il giorno che piove da queste parti e poco fa era anche molto forte, poco torre, mi ha detto Claudio che sono un lago d'acqua, quindi è così. Vediamo un po' se ha riattaccato l'altro apparecchio. Claudio, ci sei? No, lo sta ancora installando. Va bene già. Cosa stai facendo? Pulizia di casa? Sì, già fa, sto pulendo la casa. Così domani sono libero, stanotte forse me ne vado con un amico a mangiarci una pizza. E così sono libero, vai, faccio tutto adesso e non vi penso più. Infatti, cosa ha fatto a Capuari? Va bene, io rimango in ascolto nel caso rientri Claudio. Vediamo un po'. È acceso l'apparato, anche il mio, dai, sono in ascolto anch'io. Vi ascolto mentre pulisco, ciao. Ciao, buone pulizie, ciao. E avanti su 10. Avanti? Peggio che peggio. E adesso però sei più forte, 7-7. Claudio, come segnale arrivi più forte rispetto a prima? No, questo no. Che peggio ancora, no. Sono in mezzo al QRM proprio. Ma è il tipico effetto della pioggia, è più caldo questo qui. Qua adesso ha smesso di piovere. È aumentato molto come flusso d'acqua. Non ti sento più già tranquillo. Evidentemente si sta avvicinando il temporale, magari c'è troppe scariche, poi quelle lì non c'è niente da fare. Va bene, rimango in ascolto su questo, Claudio. Buona serata, a dopo. Va bene, ciao, buona serata.